adesso accesa, ho sentito la troppo tante, e usualmente dalle 4 entri, a Fagosa, troppo presto, se no poi andare la zia, riposino, poi via, troppo piatto, ok, non è arrivato niente? No, ragazzi, Sì, c'è speranza. Sì, non le si consegnano, va bene. Come sono arrivata domani? Sì, esatto. Brutta giornata anche oggi. Vento. Il vento, non c'è già freddo oggi. E poi non c'è sole, non c'è niente. Freddo sì. Certo, mi dà freddo. Allora. Con tutto quello che c'era, e lui, se l'abita infatti ho avuto contatto a studente Pantera ieri sera, che va proprio un po' incallato di lei. Luciano, Luciano. Bene, ma non mi ricordo adesso, Luciano si chiama Pantera. Stava lì al monte, al monte. Un attimo non mi ricordo adesso. Però la macchina un po' incontrata. Sì, se lo vedi è tutto messo male, adesso poveraccio. Era un estremista questo. Con chi lavorava? Non te lo ricordi con chi lavorava? Non doveva guardarti qua. E via. E con chi? E in continente, era lavorando. Ah, in continente? E allora? No, no, esercio. Adesso è con quella macchinetta elettrica che non può manco camminare, poveraccio. Molte cose, molte cose. Hanno preso anche la patente perché per la malattia che c'hanno non gliele danno. E gli italiani. Purtroppo quando è così e così, non ve lo danno. Immagina che adesso che ci sono 5 anni che sono con la patente. E più di uno se lo incuneranno adesso, vedrai. Ogni tanto cambiano legge, capite? C'è un tipo giù alla cimenteria, poveraccio, è in pensione, c'ha più, c'ha 70 anni, c'avrà. E avevo fatto solo una patente per quest'anno, prossimo anno, buono. Ah, figli, capito? Dalla cimenteria, mi ha detto che da figli a fare la spesa. Ma come mai? Non lo so perché, vogliamo solo con ha fatto tutto la vista, c'è l'apparecchietto per un disco, solo un anno, solo quest'anno, ma abbiamo detto, perché dice, la patente dice di ritirare. Ma da cosa? Sì, sono diventati i servizi delle partite, ma non si è serata la presenza. Non mi chiamo Mappini, cosa voglio fare? Sono bravo, i cani monti. E io lo stesso, adesso al prossimo rinnovo non mi riporto di là, mi porto la bici, se la picchia la macchina blu. No, se ce li hai perché mi fa per prendere. E se non vedi per lavorare cosa te lo chiedi a fare? A fare la famiglia. Quindi così è andata lei a che pagato 250 euro. No, vabbè, ci cucino, però fatti lasciare almeno la C. E devi avere il cucino la C, se no non già. Sì, è così, no, non sono molto preparato in materia, però non ho due scatole. Io ne ho due, ho persone e cose. Ma non credo un po' dove lavorare con tutto quello che ho, con questo. Non so che posso vedere si vogliono finire. Addirittura. Ma è più in Cuba, e prendo la patente che ho io, 1.000 euro si vuole. Vado a travagliare quindi tutti che ti hanno avuto preso qualcosa. Allora, perché con la patente tu ti prendi la tutti. Non è che non ti va di fare la macchina. Bello così. E addirittura la lezione della famiglia di una parte qua. La lezione a quelli di tra. La gomma del resto, non se la pagano loro. Beh, la luce di gomma. Beh, lì con così, mi vedeva. Prossima volta tra 4 anni mi sa, ci sarà anche l'esame, si vivono tutto. Cioè praticamente cosa fanno? Devi, per rinnovarlo devi dare l'esame praticamente, e siccome è difficilissimo vedrai che cazzo ne dice non me, ma non me però un bel esempio per questo che lavoro se non sta a te addirittura ti fanno arrivare l'esame è proprio normale come che lo stai dando per la prima volta. Ehi, il CQC solo però non la patente, il CQC però è difficilissimo, è più perché io l'ho già fatto, no? quindi mi devi dire un bene. Il prossimo anno ci sarà l'esame, quindi, cioè il prossimo anno, la prossima volta che lo fanno, a me mi dura 5 anni, fra 4 anni dovrebbe essere là. Fra 4 anni? Sì, perché quando scade a me scade a tutti gli altri, capito? E se no non sono serviti, cazzo, quest'anno ha visto il presidente che la TP l'ha fatto dare l'esame anche vera di voi. Hanno trovato gente che era drogata a cocaina fino a ieri. E tu non puoi così il mezzo di ora. Allora, è andata a uscire. Ecco, tu invece ti hanno dato la cosa, il marito di cosa, guarda nella, a Fabio. Due volte gliel'hanno fatto. Cazzano i buraghisti, poi se ne vanno alla meccanica, a tutti l'hanno dato qua. Quando sono entrati a lavorare c'erano anche quelli che portavano la ferma lì. A tutti quelli che fanno lavori pericolosi glielo fanno fare. Non sai, da dove mi ricollegare, ho già ultimata. A che roba il tribunale, ti vedi mio prima tu lui per darmi. Lì mi sembra un mio collega, ultimamente, perché c'era il nuovo patente, pure sta vedendo di commissioni, c'è la commissione medica. No, di che è difficile. Non c'aveva la commissione medica, non è proprio di cogerla. Ehi, adesso sono diventati più seduti, anche per l'affare del sonno, se tu non dormi bene, che ti può venire un colpo di sonno, ti rimane la patente, ma ho preso. Adesso non è che te la danno così la patente, ma adesso ai prossimi controlli è un casino. Ehi, è un po' che siamo, giù. E quindi Antonio, non ti hanno arrestato i carabinieri allora? No, questo niente, nessun argomento è basta, neanche tra i pari, a chi? E sono la cosa, la trovare il mio fratello, non era l'ospedale, io adesso. Ma bene, potete andare, adesso. Prima l'ospedale, poi c'è stato un impatto che ho avuto la cosa. Come ha visto la macchina, la spunti, mi chiede Cristina, tu dove vai in mare? Io ho detto, tu come stai? Devo tenere certi aspetti di stili. Sì, siccome io ho detto, che stavo buttando tutti i giorni a Tilly, per gli appartamenti, non è sempre stato via del mare, a Pacoso. Bell'Africa, Africa. Sbagliate, praticamente la Cecilia Casino, perché ai giorni il giorno infatti ora il vicino del giorno e tu risali l'uomo su e dopodiché scende l'uomo il giorno da la posta certo che sì. Avanti, Natale di piedi. Ehi, cazzo, soiaia. Siamo qua, cosa? Quindi non entrava manco uscì, Matola. Sì, adesso. 17.53, 55, dai. La radio sta segnando 17.55, ora 17.53, non so comunque. Sono 6.05. La radio è diventata la fantastica. Ah, niente, sarà che scende la iatta. Il gatto sta cercando. Miau, miau. Il gatto è più una voce di tipo la iata del bacco il gatto con le ali Icaro, mamma mia come sto, faccio 10 minuti di bianco, vado a pagina e rientro subito, ci sta un frappo con la pompola. No, ma non c'è il carbonati o quella che c'hai sotto casa? Ah, quella carbonati, devo prendere le cose delle gocce, devo pitare, basta. Alta, troppa buona, la grande, troppa passione di brutto. trova, ci si nova al casino. Anche io quando l'ho caduto anni fa, ne avrò penso che non fosse mai più, perché l'ho vista brutta, poi piano piano ci ho riprovato. È un casino, capito? È un casino, però se te la senti che la gamba è a posto, che insomma non hai, non hai grande difficoltà per 35. Sta entra oggi. volevo salutarlo di persona. Perché io sono stato insieme a questo grande deposito, mi stava mettendo il baracchino al trattore perché ha cambiato trattore, capite? Quindi stava spostando tutta la roba in quell'altro. E allora, ecco, allora abbiamo cambiato trattore. Sì, intanto non avvia il chilometro. E non è la seconda volta che lo cambiamo, fortunato. Perché mi ha chiesto un controllo, non si stava andando bene, guarda, di sì. Ah, sì, sì, quello ho sentito anch'io. Quello ho sentito anch'io. Sì, quella teoria che stava cambiando posizione della, dell'antenna, capito? Qua c'è Antonello, non si è più sentito. Antonello, il collega. Antonello, io ho capito. No, non mi ricordo, non lo sento più Antonello. Però io ho allungato tutti i baracchini all'orgami, o se ce l'hanno, lo pegano spento, cioè, non c'è più nessuno su cinque. Prima ti accendevi la mattina alle 6, fissa che i orami che rientravano, studiano anche nel 5. Oramai con i telefoni, con tutte le WhatsApp, capite? Si collegano uno con l'altro così, baracchino, sta andando allo sfascio, però vedi la gente che è rimasta, ne tre o quattro lugari vinti, più noi, c'è più nessuno, no, oggi, oramai il baracchino, mi pare che è finita. Ce l'hanno tutti, ce l'hanno, e come ce l'hanno? Già c'era il baracchino. Quando io ho sbarcato a Genova col camper, ho messo sul cinque, allora ho pulito i piedi. Ma tanta gente veramente, solo usano di brutto. Ma grazie a Dio, il continente. Io ci vado nelle occhi, ma non sento più nessuno, oggi. Ripeto, ce l'hanno perché ce l'hanno. E le fratture di cantere ci sono, ma non tengono spento, non ce n'è più di niente che fa vita, destra, sinistra, capito? Ma tanti veramente, io non ho sbarcato, ho messo sul 5, ma non è una brutta allucinante. Non so, io già non è più. Natalino, prova a ver se ti senti Eugenio adesso. Eugenio, mi senti? Adesso sì, Natalino. Ecco, vedi bene anche tu qua. Sono da me come, ne paghi su. Forse sarà per quello. Sono una rotatoria di Bricome, capito? Eia, sarà per quello allora, siamo vicini. Quasi me ne comparato Ugo, ce l'ho oggi mezzo. C'è niente, no, non so, ero una rotatoria di Bricome, non sono da Bricome, sto entrando a Sassari. Sto andando da Bricocina. La Bricocina a curiosare, da questi punti musicali. Cosa è Gini? Stavo rispondendo a un messaggio. Sta andando da tutti i musicali. Via. E lì dovevi comprare da cosa, dovevi prendere l'antenna. Ti fa tutto. La radio smette, che c'è tutto disponibile lì, pronto. Dove? Dove ho comprato il 2009 io, radio smette, ha tutto, e tutto è pronto a consegna. Sì, vabbè, ho sbagliato. Ragazzi, io sono arrivato solo a Rescianino, me ne stesso. A tanto, va, ciao. Ciao, Luigi. Adesso faccio curiosate poi di quello. Ciao. Io sono qua. Ascolta, ti aiuto a mangiare il cane. Così è, è 15? È 16. Attento Marco. La Fattinara, anni dal 30. Andados. A me ne sarebbe da più di me. Attento, la Fattinara, che ti ne è fatto. C'è qualcuno su 10? Se ti accontenti ci sono io, ciao già. Ah, e se me lo dici così con questa voce sensuale, ti devo dire di sì. E come mai? Guarda che mio marito non ce l'ha la voce sensuale. Ah, sì. Ciao, mi sentite anche a te. Vieni subito gelosa, vedi lo sai che io pure ero marito. E allora, gelosa. Gelosissima, non gelosa. E se me lo rubano mi batto per riprenderlo. Fai bene, fai bene. Normale che deve essere così, una buona moglie. Oh, Isacca. Natali tutti così. Mamma mia, come sto? Io sono qua. Ciao, Spalviero, ho sentito. Senti sta concetta, non irà arrivo a Natalino, non lo posso scappare. Fatti lei, ciao concetta. Ciao Claudio. Allora. Natalino già questa della gran parte, cioè vuoi a chi ti tocca? Come fa? A me stavo dicendo già che stavo parlando della città. Sì, a te stavo dicendo, se ti sei accusato della gran fatta, ha detto guai a chi ti tocca. Vabbè, di quelle cose non ne organizziamo più. Di cosa? Una mangiata. Stiamo aspettando che lo venga a testa, ragazzi, una sospesa, una sua Ugo sembra passando che non lo vedo. Ma bisogna andare, secondo me, di sabato sera, perché poi c'è la domenica libera, se ci si può trattenere anche ascoltare la musica, karaoke, eccetera, eccetera. Allora ci siamo andati là, perché proprio che dovrà un karaoke. Ma bisogna chiedere il permesso a mia moglie se mi manda. Ah, non si è. Vabbè, già ti manda. Già sa che siamo tutti bravi ragazzi. Ma lui non si fida. Di me già si fida, di un altro che non si fida adesso. Così è. Vabbè, in casa te si fida di te. Se si fida di te, ti rimandare. Non sono più libero come una volta, te lo ricordi, mi ritiravo alle ore piccole e tutto. Adesso mi sono stata in casa, con i giavatti, non lo so. Vabbè. Diciamo che le cose cambiano per lui. Magari era fatto già, ma casi vecchia. Vabbè, già ci vuole, invecchiare insieme, già bello. Ma io sono venuto a mamma già prima. E tu non li fai assicurazioni, tu sei arrivato con la mano. Al limite ti così se lo mandarello. Quello è armato, se mi vuole ammazzare mi ammazza in qualsiasi momento. Già. Poi io sarei via, se non adesso io ci sono le due. Tanto per la serata. Ah vero, lì si aggatta. Ma che dimmi così che è fusilata? E tu fai da bravo, tu sei a Roma con lo tieni fusilata, vero coce? Tutta la vera, il signor ti direi che è tirata. Mentira! Della gentesa, ma diciamo non tanto bene perché ci siamo cercati soli, quindi come era ieri oggi. Quindi di pensare che io tengo la pistola più sappiato, ma siccome è piccola, no? Quella lì la può prendere, mi chiedi una pistola parata. Sì, ma quella non deve avere la cassaforte per prenderla. Ah, te la dico. La polizia più sappiato. Sì, un amico che va a caccia, vabbè, per la Roma, c'ha Winchester, praticamente una volta ho invitato un amico a mangiare a cena e questo amico ha detto lo posso portare un altro amico perché siamo insieme, cioè, sì porta non c'è problema, e quest'altro amico era un carabiniere e ha già visto il fucile appeso, come stato in casa ha visto il fucile appeso e oltre che era stato invitato gli ha fatto osservazione perché aveva il fucile appeso, lui ha detto che dovrebbe la cassaforte e metterlo dentro la cassaforte. carabinieri prendere questo ritratto, non capisco nulla. Bisogna essere più graziato che non lo possano prendere persone, non altri ritratti. Era attaccata al muro, però aveva ragione, non la poteva tenere, attaccata al muro. Era una possibilità di un buco già che la pistola sul tavolo, qua, non era già la pista. No, la salita era scarico, naturalmente, non era carico il fucile, no? L'ha messo come, diciamo, sai come si fa nelle case di campagna e cose che devi di papelletta. Era appeso così, senza, c'ha un Winchester, perché c'ha, io mi ho fatto vedere i proiettili, naturalmente che era un'altra parte, no? Ecco, mi ha messo i proiettili, le basi di cannoni, guarda. No, li puoi tenere qui. E non è stato costruito, è un reato, così non devi venire attaccati. O ti prendi una fucigliera blindata che ti stati dentro, oppure non ha mai chiusi a chiave. È meglio la fucigliera perché aggrappata al muro lì, c'è la chiave blindata, quindi è meglio tenere così per tua sicurezza per ogni. Infatti adesso si è preso quella fucigliera che è stata fatta blindata, tipo la cassaforte rimane che era fatta bene. Quanti dicatori perché l'ho subito invitato, io avevo invitato l'amico mio e l'amico mio da ragazza Ghiscia, ancora c'è più l'incontro, ma sei rimasto. E mi ha detto perché ha preso così, non va bene. Via. Bravo, ci si, più. Mi ha detto perché, meglio non lo vuoi di lì, sì, devi venire affrisciato. Infatti la prossima volta già è l'amico, non vuole portare più in questa gente. Oh, ti dà un contrassenso tenendo chiuso a chiave la cosa. Perché se tu devi difendere la gamba più la usi di cazzo da una matta di 2000 euro. Sì, ma per la legge italiana non ti puoi difendere, lo fatti che sciuffare e paghi i suoi, ti sei sarrato, ti frisciato. Non ti puoi difendere, per la legge italiana devi far sparare. Infatti, se un problema è che si misura in orizzontale, a chi lo ribaglio, mi si vuole. Dicevo, non è meglio un brutto, meglio un processo che un brutto funerale, no? Quello è un bel processo che ho avuto funerale. E a parte che qua prima di entrare devono aprire il portone, aprire la porta blindata di qua, adesso mi metto anche le telecamere da lì. E ho quattro qua e non mi riuscirò mai a pulirli. Ma di quale pisce? Eia! C'ho tutto l'armamentario per poterle piazzare, le avevo comprate ma non le ho mai piazzate, adesso me le piazzo. In modo che quando non ci sono le metto in moto e funziona, capito? E a Portotone ci sono andato una volta in una casa e praticamente c'ha la telecamera collegata al computer. Ce l'ha esterna la porta, no? Praticamente uno se va a aprire la porta firma tutto qua. Ma sono cose che magari ti pone di mano, ti faccia i figli e cose quasi rubate. Ma io la metto dentro casa, però quando tu apri la porta sei già firmato. Già prima di arrivare qua, poi qua ne metto altre. Quindi sei firmato da là e qua. Non c'è problema, vai. E tu devi lasciare partire l'armamentario, capito? E meglio che non si spiega, perché vedi, quando uno ha le armi si mette nel casino, ci sono queste cose. Se uno non ne ha, vabbè, che in casa le armi ci sono sempre, anche tu mi così da dottrina era di chi lo mattesse. No, quell'arma è propria. L'arma bianca lo cucina. Eppure qua non scherziamo, c'è una arburezza che minimo è 20 centimetri. E se come gli avverrà qualcosa. Io ho due pistole, c'ho la carabina, c'ho il fucile a pompa. Sono che sono le guardie giurate. Ehi, allora io sono andato dal navire. Quella poppa è di passare la palla. E tu, caricato a palla, da un rinculo a quello, cazzo, che una cosa, io sparavo a una mano col fucile da caccia che avevo io, poi da sparare con una mano, se ci vedi. No, bellissimo fucile. E come mai ti hai preso quello? Per sparare nelle aree alti del cinghiale, così poi ci addottriamo anche con quello. Mi manca l'M4, l'M4 è bello, l'ho provato, il calato, il coso da noi. Ma da Gianfranco qua, da Gianfranco Giada. Ehi! Che dici, mi conosci? Penso di sì che ti conosca, poi hai detto Gianfranco Giada, io lo conosco. Ci conosciamo da ragazzini. Lui è proprietario, ma non ti la segno così. E io devo essere su, sul terreno di un altro. Lui è scrittore, da qui. E qui noi facciamo studio dinamico operativo, cioè quello che non è di quello che si è operativo, già facciamo legale anche, no? Però è operativo, quello che usano le forze dell'ordine, praticamente quello che segnano le forze dell'ordine, noi facciamo. È difficile, non è facile. Una volta mi ha detto Gianfranco, come ha detto che stavo sparando tutto il giorno, che mi ha cambiato la pistola, ma ha detto spara in testa, mi ha discusso a casa due che l'ha giocato in piedi. Ascolta, ho già dei proiettili veri proprio. E allora, se non ricarico io le cartucce per pagare di meno. Ed è all'aperto, così è. Io so che fa, ce l'ho anche su Facebook, ce l'ho come contatto, Gianfranco. E siete all'aperto, così è. E già, ci sono le linee di filo per i fucili che sono al coperto. C'è quella da 50, da 100 e da 300 metri. Poi ci sono i campi per le pistole. Sono una bella cosa, perché la passione, che la passione, ci stai andando. Salute. Io sono un po' di tempo che non ci andavo perché non stavo bene, ma dovrei riprendere. Cavagata. Ehi, ho la crucca, ero il campo. Sì, è la crucca, il campo. E questa è la crucca. Vengono le guardie giurate, i vigili, i urbani, i carabinieri, polizia, tutti vengono. Infatti siamo stati loro riservati, quando ci sono loro chiudono il campo perché non fanno entrare, capito? Noi abbiamo in altri campi. Io pensavo prima che facessero con le guerre simulate, queste cose qua, invece è proprio un capo di tiro. No, noi facciamo addestramento, vengono anche i militari, quelli che vanno in Afghanistan, vengono ad addestrarsi. E lì ci va, lo sai, chi ti opino, è un amico di un istruttore dei militari, di quelli che vanno in Afghanistan. E quindi già guadagnano bene a quel campo, se non so quanto si fa, però questo campo gli frutta bene. E penso di sì, poi fanno le gare, va tutto, ci divertiamo, là. Perché Gianfranco lavora anche in banca, oltre che fa per questo. E lui sta al patrono, è proprio per difesa personale, a lui gliel'hanno dato, capito, perché è scrittore. Si sa che l'hanno affidato da qualche giorno. E quindi, tu cosa, devi portare l'arma da casa tua al campo, devi avere qualche permesso. Il porto d'arma devi avere, se no non la puoi portare. Io c'ho il porto d'arma, ma lui è sportivo. Quello da caccia l'ho portato in questo lugar perché non me ne posso nulla. Però Vabbè, un giorno che ti vedi mamma ti ha da casa a cicchiare, non fa del genere, ce l'ho finito, perché le dà. Ma la adesso mi devo fare i soldi di pesca, non devo rinnovare, però non ho tempo di andare in capitaneria, poi se quando c'ho le ferie, un altro giorno che non ci andiamo in capitaneria e ce lo facciamo rinnovare. Ma anche al computer mi sembra che si possa rinnovare. No, ti basta prenderà, ci hanno provato in oltre anche a produttore degli amici, metto la cosa che ci ho provato e non mi fa entrare. Ha provato Marco, lo stesso, non ce l'ha fatta. Tutti in capitaneria, beh, l'anno scorso sono andato a portare, ma per la lava in capitaneria, mi hanno incontrato, sono entrato in ufficio, le tascotti, ma l'ha fatta e sì, lascia qua questo quarto, perché ti facciamo tutto quando dovete scaricare la tua impronta, e così ho fatto, scaricato, sono andato e me l'ho ritirato. Lasciamo i pesci, gli spazzatori, chiamo la canzone al porto pesci. Chi è che sto facendo così male? Eugenio, quando se ti senti a letto io c'ho la tema piccolina. Ciao Eugenio. Ciao Gianni, buonasera. Sto uscendo male, ma sicuro di sì. Troppo forte, dai, non è che sto uscendo male, ma è troppo forte e non si capisce. E allora c'ho fatto il video perché tutti mi dicono sto uscendo bello chiaro, forte, bello. Spero che prova a passare il volume, vabbè. Oh, guarda, che... abbassa il volume, che è troppo... c'è il volume troppo alto. È vero, non ce l'avevo io alto, come va? Cosa hai detto? Lascia stare? Ecco, lascia stare i pesci di Torres, che a bocca non solo è prodotto turismo. A bocca non solo agli anni è prodotto turismo. Ma perché te la racconto una scena? Una volta sono sceso al molo a pescare e c'erano tutti quanti che il produttore si è portato pure di mai lì, perché sai, eravamo invitati tanti amici a prima di scendere a pescare. Dopo dice portiamo a mangiare a fare i calati, già ti ho finito di risturbare, vabbè, mangiano tutto quanto. E mi dico, tutto il giorno pescando mi andavo tolto un pesce. E ho detto, vabbè, io ci avevo buccone il giorno, ma tu con i bucconi, non la bocca. Proprio un cavolo, ho fatto il primo lancio e ho preso una tartaruga da 800 grammi. La fortuna è principiante. La fortuna è principiante. Ma non fatto che non sono più principiante. Ma vedi tu, cazzo di legno, tu adesso sei la figura di un pesce. Per dirti no, come capita. Ma vedi, a non sto più andando, sto prendo sempre da... sempre dalla spiaggia, in realtà ti faccio vedere un'orata che ho preso dalla spiaggia avvicinata. Ma fatti una bella pescheria, ci metti meno tempo, e scesi e lo scegli anche tu il pesce, scegli il pesce che vuoi. Sì, non è la stessa cosa, è più bello pescarlo, una soddisfazione, toglierlo fuori, poi silenzio, ma ti piace. Quando vado a pescare io vado nei posti silenziosi, perché mi piace il silenzio, mi dà un senso di pace. Mamma mia, c'è. Il senso di pace lo raggiungi quando siamo usciti. Ah, cosa c'entra? Quando sei morto non riesci a goderti la pace, invece quando sei vivo ti godi anche quella. Magari fai una giornata stressante, cose del genere, e poi quando vai a pescare ti rilassi, capisci? Quello che voglio dire. A me mi fa parlare una cosa. Dipende. Quando vai a pescare magari sei in greppa, arrivi, fai, scherzi. Ci pigli valuto uno pullato 1-0, palla in centro, è stato più mano di me, eccetera, eccetera. Alla fine sfottendo ti metti di vero. Io mi ripeto con i colleghi. Con i colleghi hanno il fucile sempre carico in mano. Come vediamo le orate, che stiamo mangiando lì a... sotto la baracina, si mette la telecamera, quello è già il dipendente. E le orate si fanno per la te, il fucile, ui. Le orate è bello prendere con la lenta, con la canna, sentire tirare quando stai tenendo fuori. Non è bello. fratello quando mi scappa, quando arriva e passano gli anziani, quindi che raccolgono le cucchiaie e fanno, oh, com'è bella, ah, come è successo a me, la fregione di mandare a casa, ti mandi chi si fa io. Ma sta di lui che ti ha chiamato, amici. Vieni, giù. Ah, già ti sento, ti sento ancora. Dove sei, oggi? Capito, senti. Ecco, oggi mi ha dato questa antenna della Midland, già, piccoli di quelle piccoline, ma ancora non l'ho provata, dove sei andato, Chiami. Quell'antenna va bene, un'antenna, fida. Io parlo della PLC 800 dentro in macchina, è fantasma, quella di chi è fantasma. Ma che quella farà bene, ma già farà anche quello, così è un sasso di Guacamole, io ti ripeto, l'ho parlato con Claudio, ti ha portato sul campo. E allora dovrebbe funzionare, però allora, si dica, ancora non ho avuto occasione, ma non avevo mai nessuno di su gas della frequenza, non c'è mai nessuno, ma Gianni cos'è, è andato via. Oh ciao, sono arrivato, non voglio fare, ciao. Oh, vedi? Via, così è, bella la vita. Come dice? Bella la vita è, ho saputo un attimo che ero al telefono, nel frattempo stavo ascoltando un questione V, molto bene, come poi faceva? E ti la dici, mi sono buttato, ti la Ehi, hanno già visto l'ascoltando, però ho abbassato il volume che ero al telefono, siccome c'ho l'auricolare, non sentivo quello che stava dicendo, ma c'ero qua, dai. La papignara è la caccia del gatto, sicuramente, è la vettiglia, non lo so, un po' assente in questi giorni, un po' assente, e cosa vuoi farti? Ma io stavo cercando anche di memorizzare le cose, lo vedi, so che non ci ho ancora capito, ma ci senti questa radio, vabbè, io non me ne affronti nulla. Volevo impostare lo spot, invece non ci sono riuscito in America, il manuale va bene. Allora a me la questa ieri su cosa te ne fai? E se non ci stanno in quelle mensole, prima nella radio di mensole in due cambiamo mensola. Ma metti sopra il tavolo? E così mi devo andare io, così devo iniziare la radio. È un po' barragione, va bene, gappa. E cosa stavo dicendo? Un'altra cosa, non mi ricordo più. Non sto ascoltando i miei, c'è un bello preparazione in 20 minuti. L'ultimo segnale, forse stavo facendo andare un po' la direttiva a fare la mova, che sempre ferma, mi sa che sono tutto la cinciola. Sono qua già, accendo il contro box, la faccio girare a destra e a sinistra, stavo dando un po' i segnaloni, va bene, sì, ma una giornata così, non so se piove stanotte o più tardi, me lo chiedo per poi buttare un gran, che verso le 7, verso le 8, ma non vedi lo porto. Una cosa strana, mi si è asciugata la gola di colpo, come stavo parlando e mi ha detto che questo colpo di tasse vedeva i CDU, come poti mai fare su qualche cosa? Stasera la tappignana non è entrato. Stava cercando il gatto volante. E chi ce l'ha mandato di su, di più di qui? C'era questo drumito. Oh, non è detto, però se si è addormentato ancora. Oh, Gianca, stavo dicendo, mi ha regalato, cioè, mi ha regalato un'antenna, infine, di quelle Island, di quelle corte, però bisogna vedersi in basso. Ma per quella, per che cosa? Per la macchina? Ehi! Perché la PLC è possente, io ce l'ho su un coso, sto parlando della PLC è possente, ho capito, e non me la posso via fare in macchina, se no qua come faccio a parlare? Natalia, se hai disponibilità la PLC Minox con lo stesso attacco che c'è tu, va bene, corta a corta, 45 cm, cazzo, infatti un metro, è molto bella come prende. Io lo so, però chissà quanto ti la faccio nel bagaglio. Sì, non è che sia assai per fare 45 di una cosa del genere, cosa? E poi qua non ne hanno, tocca parlare di là fuori. Quello sì, quello poco ma è sicuro. Qua c'è quello che ci aveva, come si chiama, tipo Grassi, là, quello che hanno aperto nel curvo. Quello che lavorava da Grassi, quello lì c'ha solo la PLC 800 che fa. Infatti, io c'avevo quella, me l'avevo tolta e l'ho piazzata in una sacca lì per poter parlare. Ce l'avevo sulla base magnetica addirittura. L'ho tolta dalla base magnetica e l'ho messa là, perché ce l'avevo dentro casa prima. Vabbè, Natali, ti compri un'altra antenna che l'hanno detto quella lì che l'hanno piazzata in mano. Infatti, quello che ho detto altrimenti non ne ho. Non ti hanno fatto sapere nulla, no? Arriveranno o questa settimana oppure la prossima, quindi. Io vi ho compreso benissimo quanto materiale disponibile da lui mi domanda. Allora io ho una lista che mi ha detto Claudio, quello tipo venga, ma se lui la voce se lo fece gentili tutto qua. Quando tu vuoi per dire un apparecchio che loro non ce l'hanno, te lo dicono, guardi, chiamo il rappresentante e le chiedo se me lo porta. E poi le faccio sapere, e poi ti richiamano, guardi, fra tre giorni ce l'ha a casa, se lo vuole lo facciamo arrivare. Sono molto seri, capito? Te lo dico. Il fatto di non dirtelo è una cosa che rompe le scatole, perché uno aspetta con ansia e cose da cui non ha visto. Almeno dimmelo che non ce l'hai il capo, e io gli avrei detto, mi mandi almeno l'antenna, il capo me lo compra a Sassari. Invece nulla, non mi ha detto nulla, l'ha incasciato prima e poi lui mi ha rotto le scatole, e non mi ha detto nulla del capo. Perché a Sassari c'è Melchioni che lo fa per dire il capo, lo fa lui. Ma lui non si è approdato lì, a vedere se c'era. E vabbè, io che sono negozio poi mi viene il malumore che ha dovuto tutta la musica, sembra un negozio dimenticato. Meglio un cavolata nera, domani c'è il cavalleria, sai che fai farsi in cavalleria, vai, non passa in cavalleria. Se non ce l'hanno, quando ce l'hanno te lo manda, un progetto qua. Vabbè, ma te lo dico. Magari l'hanno già spedito e arriva domani. Ma, sì, vabbè. Dai, è quello che ci aspetta di noi, si può aspettare anche in 4, dai. Interessante che arrivi che non faccia le luci, perché io già ne ho pagato le conseguenze di questa gente rocca che c'è su internet, già del giorno è giudicata. Ma io ho telefonato, dovevo comprare da Radio Twitter, non c'è già un fallo, da Radio Twitter, è una persona così alla mano, tranquillissima, e non Non posso usare. Ma io non mi sa tanto che faccio come tre due, quindi è difficile da trattare un cacciavite, no? Io non mi so più trattare, non mi grazie, mi faccio quando mi sa trattare, ti grazie, è diverso. Ma io non ne tratto proprio, tranquillo non ne tratto. Non so proprio ad operare io cacciavite, non fermo, finito. Con Massimiliano la cosa è l'ultima, è l'unico che gioca con Massimiliano, perché? Che ha dovuto? Sai che cosa dove sono? Uno in mano, roba d'antenna, non so che cosa, allucinante. Go. antenne passate è venuto anche dallo stress, quando ti hanno visto i genitori, eccetera, eccetera, c'è bisogno di andare a casa, e tutto lo stress anche quello. E allora, lui insomma ha dato la pressione, tutto, quindi è per quello, e ti occupati di alla vita. Io avevo preso il conto. Allora io faccio 4 esulini al giorno. In più freddo, triathlon, l'ultimo, sono 3, e poi prendo la metformina 3 volte al giorno. Sono 3, 4, 5, 6, 7 pasti di più esulini. Quattro le faccio. Questione di conto di conviverci insieme. Faccio 3 normali e una notturna, quella che lascio letto, là. E questa isola non si può curare. Ce l'ho esattamente 18 mesi. 18 mesi. E la stava curando il dottore. Praticamente l'acqua si. Praticamente questo dottore non riusciva a curare. Praticamente ci formava il calo, la scavava di nuovo, eccetera, eccetera. Poi stava facendo di ambiti con la fine, perché ho visto che ero letto nel bar. Non ricavava ambiti. C'era stato centro diabetico e il dottore centro diabetico pensa che stava sbagliando la cura, che all'inizio andava a bere, quindi c'è che mi dava perché doveva asciugare la finita, poi mi stava ammazzando anche le cellule buone. Quindi si formavano i carni, non facevano unire i due lembi della carne per chiudersi, no? E me la stava curando questo centro diabetico e adesso manca, ci passa proprio lo stilo, è piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, però poco a poco. È tutto da un momento che mi è entrato, mi hanno operato, secondo me mi hanno sbagliato l'operazione, non lo so, c'è sempre quell'idea lì, perché mi hanno praticamente quando mi hanno operato al piede, per togliermi il vetro, mi hanno fatto un taglio lungo, e le due parti dove c'erano i punti sono guarite, 2 settimane sono guarite. E mi ha lasciato un punto per fare l'atterraggio. Questo punto qua è andato male. È andato male, è andato in tensione, questo è collato, è cominciato così. Durata male, basta. Ma comunque questo dottore qua, dicendo diabetico, adesso chiaramente che ci vuole una scarpa particolare, che se è tipo un tutore di quelli plastica dura esternamente, dentro c'è una calza che con una pompetta tiri l'aria, aspira l'aria e prende la forma del piede, tipo, e vedete quelle tre complete che si usano in ambulanza per il braccio, per la steccompeta, la steccogamba, la steccobraccio, eccetera, eccetera, quelle che si usano la depressione. Io capisco. Esatto, quello lì, cioè praticamente, adesso non li ho più viste quelle lì, non li osservava. E praticamente fa quel lavoro lì, sai quanto costa questa scarpa? Quasi 43 euro, e mi rimborsano dopo che rimborsano, mi rimborsano 60 euro. E io sinceramente spendere 400 euro così non me la sento. E quindi adesso sto lo sto procurando, sai con che cosa? Con la politica. Sì, ma piano piano si sta chiudendo, capito? Adesso me l'ha portata di nuovo in sacco, che questi tiro che non si chiudeva, gli ha tagliato il carro, l'ha portata in sacco e sta tornando la costa. Speriamo che si chiuda, Lucia Romano, mamma mia. Come si vede molto capita, sì. Me lo posso immaginare. Fatica uno quando gli ha detto fatica a guarire queste cose qua. Sì, ma poi in realtà lì mi hanno obbligato a rientrare alla borsa, io mi licenziavo, quindi ho dovuto lavorare con questa piaga sotto al piede a carne viva, immaginati più come ero io. piccante biglietti, mi dice, ma che non te ne stai a casa, ma da dove a fare una cosa, e sì, è da voi, cosa può fare? A parte che manca a parlare di Dio. Sì, 5-6 anni. Ma sto facendo la domanda del Babaletta adesso. Ho fatto la domanda alla visita, adesso devo dare la risposta. Ancora non me l'hanno data, ho fatto la visita all'Inps. E anche per questa vicera che ho, ho presentato la documentazione dell'ospedale, poi ho presentato un fascicolo di documentazione, c'è aperto due o tre fusi su guai. E a chi avviene tutto? Ha detto che lei già c'è la documentazione, che stai prendendo solo questa qua di adesso, quella di prima già non c'è problema. E come non c'è problema? Se la fai già presso ce l'avevo prima, ce l'ho anche adesso, solo che adesso mi sta dando più problemi perché mi fa più male, cosa, non posso più fare spunti. Tuttavia, dopo che collaboro lì, tutti i punti, tutti i campi, tutti i vari mari, sì, adesso ti curo un cagnotto, mi posso mangiare la mano. Ah, lui, tu non puoi lavorare in quelle condizioni, eh? Ah, signore. Lo so, Natalia, ma ho fatto 6 mesi di malattia, praticamente ne ho fatto 3 mesi prima e poi sono rientrato per un po', ho visto che non ce la facevo e sono andato con la malattia. E il dottore mi ha detto che non avevo manco rientrato, però ho detto sono rientrato perché poi magari mi eccesso. Beh, lo sai che non è più così, che adesso è anno solare, per dire vai ad aprile di quest'anno, ci aprile il prossimo anno non puoi fare malattia se hai fatto 6 mesi. Certo. E manco male mi hanno avvisato, sono stato in gamba, se no se volevano ne approfittavano, mi facevano continuare e c'era certamente in tromba. E poi mi hanno proposto se volevo fare 3 mesi di aspettativa, però senza essere pagata. Cosa faccio? Dicevo di sì. Oh, yeah, yeah. Ma la domanda è no, usami cosa hai, oh? Questa gente che purtroppo pensava ai loro interessi e tutto. E allora? Si è allargato il tetto l'altro giorno. Stava trasudando l'acqua di un bel negozio. Beh, già che vai a asciugare quella cosa perché hanno fatto la pendenza male, no? Hanno fatto la pendenza contraria allo scarico. Tu invece che l'acqua andare verso lo scarico qua si concentra al centro e lì praticamente il catrame, forse col tempo, qualcosa, si è alzato, è entrata tutta l'acqua dentro, tutto qua, tu ne hai buttato la chiave. E come faccio sulle scarpe da tennis? E bisogna farlo, cercate un po' di stivali, dopo li cerco di stivali, la mia misura. C'è, quelli che usano gli piccoli della pescheria sono stivali più piccoli. E guarda se ce la fai perché è un casino, se fanno ubriaco, vabbè. Hai già avuto l'ubriaco, la tariffa, tu ti prego, facciamo il piede. Tutto bianco mi sei fatto sotto, tutto come ti hanno ciuffito, tutto canto bianco. Cazzo, ma il giorno dopo mi ha di nuovo più brutto e mi ha detto di nuovo la sacra. No, io ci ho buttato via le scarpe, me le ho portate nuove e non me le rimosso nessuno. Le scarpe erano però e me le ha tirate infrante il gas, tutti, perché c'è anche feci di piccione, di cosa sotto. Beh, fatto sta che ci ho buttate via, le ho prese nuove. Il giorno dopo mi dice di nuovo, no, ho detto guarda io non ci vado, lì da qualche giornata che iniziano a stivare, c'è già cominciato, ho detto di là tu e farò così, allora è fai così. Cazzo di aro, stai facendo pure un paio di occhi, no, ci ho compreso, cazzo di aro. Ma chi vuol torre incatramato, non hai compreso che torre incatramato, se no entrerà sempre ora, anzi, grigio gli fa. In realtà di, ma in primis la pendenza, tu in catramento, vabbè, te lo tiene, diciamo che riesce a tenere l'acqua, però non defluisce mai gli scarichi, perché la pendenza c'è, non è riempito, fatta la pendenza verso lo scarico, mentre invece è fatta al contrario, praticamente la pendenza è al contrario dello scarico, capito? Se l'hanno fatto male dall'inizio. E di catramatura si può fare, infatti la devono fare, di bucata da pulire e basta. No, no, la legge è una bella pendenza come si vede, puoi incatramare. Se no, tu sai che vai. Sì, sta filtrando tutta l'acqua, sta filtrando l'acqua dentro perché si forma proprio una pozzanghera, la mano, cioè la taglia, sta tutto il piede dentro, non fa. Ma io poi sono una bella, dimmi, ma che sai cosa faccio con l'acquisitore dell'acqua, quello che sembra per cui vite, con la roba proprio di quelli grassi. Con quello lì lo spingevo, cazzo l'acqua tornava indietro dove c'era fredda dall'altra parte, quella che mi dava l'acqua. Mai si ma come fa la palla a prendersi al contrario, boh? Chi se la vuole raccontare, se no gli mangia due su ganzo, chi? Gli fa un danno, o lui? Sì, ma poi il bello è che sono venuti degli operai per vedere il lavoro. L'altro giorno li ho fatti salire, li ho fatto prendere dove si bloccava l'acqua. E mi ha detto, l'operaio mi ha detto, guarda, io posso assicurarle il fatto che non entri acqua, però la pendenza questa qua l'aveva fatta dall'inizio. Cioè per fare questo qui bisognerebbe mettere tutti i fusi incastravanti, rifare la pendenza cementata e poi rimettere i fusi incastravanti, ma non c'è che più di gusta. Per me dice potrei anche farlo, ma è una cosa quasi impossibile per uno che fa quel pezzo almeno dove deve defluire l'acqua, perché non è solo in un punto, è in diversi punti che si ferma, però in un punto particolare per me. Ma intanto il burro di bombe che voglio incatramare, quanto dura, hai visto, prima c'è le musiche diretti. Scarichi ce ne sono più di uno, ma perché cosa ci sono? Per niente, perché si infossa, l'acqua si infossa al centro e agli scarichi non ci arriva nemmeno. Quindi è come se non ci fosse, la devi spingere tu con la scopa oppure con le cose e buttarla fuori, capito? E la mano c'è, quella che spinge è poca, quella che rientra dentro, cazzo se la farà, perché c'è la pendenza, non ce la fai tutti insieme. Bisogna essere in due o in tre e uno con la scopa a fare la parte e poi l'altro a prendere quella dell'acqua che sta scendendo e la prima da qua, ma solo non ce la fa. Le cornacchie piccioli, ho trovato usci di tartaruga, ossa di animale, insomma di tutti di più, perché se la portano sul tetto e se la mangiano, lasciamo le ossa, capito? Cosa tanto trovato? Abbiamo curato roba di picciolo, perché non faceva metterla, la dovevo fare asciugare prima, l'aria tutta carta, abbiamo curato a palate di questa roba c'era. E poi in tasca quella lì, capito? Sopra ci sono i motori di condizionatori, praticamente gli scarichi, eccetera, eccetera, in tasca è curata perché è pieno dentro, ma c'è anche un vinè, in chimica se ci vuole sta mai qua. L'animale che andava a fare un figlio così così brutto che cazzo. Purtroppo quel lavoro costerà un po' di soldi e lo dovranno fare perché gli rovina tutto lì. Noi non andiamo a fare bucca la rocca, la buccia, la bucca là, ma guarda ma cosa male che lei. Il mio collega c'è stato ore e ore per ho detto, ma la pazienza, a me mi stava con gli stivali, quindi diciamo che sono gli stivali, quindi la pescheria. E salito su, ha stato ore e ore, pulendo, facendo. Poi il giorno dopo di nuovo più brutto, cazzo. Allora sai cosa fa? Lo porta a terra, ci ha appeso un secchio, c'era un tubo che passava, ha preso questo secchio e l'ha fatta diffluire l'acqua che per me ha scalato questo secchio, ma in alto, è un giorno che quello lì si riempie, cazzo, in campo, che si vede, ma se lo cavretto, di 10 litri, proprio di evanita. Ti conviene non mettere di quel secchio, perché come si dice fa peso, si stacca, cazzo che si sta cagando tu, che ti fa del rubaglio. E io faccio un rubaglio. E brutta noi. E adesso vabbè, col tempo buono, dovrebbe essere casa, stanno aspettando che si asciughi tutto quanto per fare i lavori, perché bisogna aspettare che ci sia proprio caldo. Ma che tu per caso, sai che c'è capitura come si sente? Dopo che hanno mandato le 14 di agosto, ma non ricordo lo 7, a fare questa pulizia del tetto, perché ha tanto sporco di questa roba. Non era allagato, allora me la sporco in frici di cose, quindi per pulire, l'ho chiamato subito, ho cognato a pulire. Sono sceso in ufficio tutto sudato, ascolta, fa una cosa, sali cinque, io si puoi pulire perché io mi sto sentendo male al caldo che c'è. E lo fa un altro giorno, un altro giorno, no, io non mi voglio più. Cazzo, tutto sudato, bagnato, completamente bagnato. Non me lo posso immaginare. Il 14 di agosto con la temperatura a 40 gradi mi sta mandando sopra, hai capito? Cazzo di merda. E io sto gugnato, ci fossi stato qualche nemico. E ma adesso già non sono più, no, non sono più adesso. Ma c'è più il tuo cognato? No, andate in pensione. Nei figli, tutti qua sono andati. C'è la tragedia adesso, adesso è un'altra società. Certo. Sono tutti giovani, capito? Gente che ha studiato, gente che si è fatto il suo, che hanno studiato proprio per il commercio, cioè sono laureati in economia e commercio, eccetera, eccetera. Facciamo molti corsi, siamo ben preparati in tutto e per tutto, anche col comportamento del cliente, come prendere un cliente, come servirlo, eccetera, eccetera. Tutte queste cose ci fanno fare. Sì, beh, per marketing. Esatto. Ma facciamo anche corsi tipo pronto soccorso, antincendio, tanti tipi di corsi, capite, se vedete c'è il corso di inglese per le scarpe, quando vengono le turiste, eccetera, eccetera. Hanno fatto il corso di inglese, però io ci sono andato di quella visitata, no? Ma la sentivo di andare dopo tutte le ore di lavoro che faccio, andare lì a fare il signore, tu? Io mi ricordo. E allora? Anzi, mi vado a culi. Dopo io non vado a sentire un caldo, mi vado a studiare, vanno. No, poi non è pure, è stato prima, magari, ma se vado più da studiare, va. Sì, vale, così di perfezionamento ci vado sempre, perché sei obbligato. Devi fare per forza, addirittura vengo a controllare se ci siamo tutti dall'esterno, vengono a controllare se ci siamo tutti, quelli che devono partecipare, perché fanno diversi punti. Vengono e mettono la firma e poi se ne vanno, devono controllare che tutti siamo così. Figurati, anche se controllati. Sono corsi obbligatori. A noi ci hanno fatto fare un corso di sicurezza, prima di far travagliare, il corso che da chi li ha fatti, eppure me l'hanno fatto rifare, così ad incendio, pronto soccorso, tutti i temati. Ma no, ben comune. Allora? Sì, tutti quelli che hanno nominato li ho fatti anche io. Ne ho fatto anche uno che, quello della sicurezza, era praticamente ogni volta che andavamo era dalle 3 sino alle 7, ogni volta. Per tre volte l'ho fatto, tre consecutive, tre settimane. settimana. E allora un mediere ci hanno fatto fare dei corsi, prima di entrare a lavorare addirittura al comune. Allora invece finito il lavoro, quindi finisce l'entrata e finisce il corso, da quanto molto tempo di mangiare. Io col fatto che devo farmi in sfida, ecco, me la devo portare appresso, farmi la in bagno, mangiarmi qualche cosa, un pacco di cracker, qualche cosa di una frutta, perché se no mi sento male. Così, dopo c'è il medico del lavoro che, per dire io, quando sono rientrato, quando hanno fatto le prese al lavoro, mi sono dovuto presentare nella sala riunioni e c'era il medico del lavoro che mi stava aspettando. E praticamente mi ha visitato, ha visto la ferita e tutto quanto, ha detto sì, no, è che io gli sono andato tutto lì, ha ragione, dovrebbe stare a casa a riposo, però purtroppo la legge è quella, siamo in Italia, e c'è lì per collocare, per stare a letto, con il piede alzato, eccetera, eccetera. Adesso vediamo di dare qualche cosa di leggero, ma poi la tarina, la roba leggera, non tra l'altro, mi ha detto, se ne fa male, si siena, si tolga la scarpa, se vede che sta sedendo il piede, si chiude la carta, lo fa respirare un po', allargando appena appena anche la penna, di modo che respiri, e sta seduto per un po', si riposa e poi ricomincia. Dica, mi colleghi, poi che la legge usi. Prima mi ha detto, se non l'avevo pigliata con crema così, avevo fatto 30 anni in tribù, così ha detto, io ho detto, vabbè, tu prenditi la calma mia, però ti prenderà anche quello che c'ho, ho detto. E allora, se non gli autori non viene capitato, questi chi se l'ignoranza, a me è buona, pagando mai, sono marito, male di condizione, così c'è niente. Quando mai lo comprendi che uno non lo può fare? No, è cattiveria brutta, quelle cattiverie. Io faccio, guarda, molte volte abbozzato, molte volte lo sai che mi faceva male, non mi scendevo tutto perché avevo timore che magari dicessero qualcosa, capito? Quindi evitavo di scendermi e magari abbozzavo di più i cattiveria di amari. Camminavo più piano, cosa, sai, non ce la fai, se stavo duplicando, piccavo, mi camminavo con il lato del piede per non appoggiare la pianta in terra, camminavo con il lato del piede. Lo so, c'è gente che sono cattivi, e cosa vuoi fare? Via da uragai, e due, questi vengono a te e a me mi bacia subito, e vedi come ti curvo. Ma se me la... diciamo che mi era già passato, infatti andavo contento, non ho fatto fare allenamento, visto che c'è Bricome, dietro c'è, ci sono quei cinesi, lì ci sono delle gratte in terra, e allora battesimo a saltare, capito? Infatti per attraente a parete, lui dicevo salta e mi saltava, e praticamente questo pista mi ha guardato, c'è Bascale, e ha provato a farlo con il suo, si frena, non cane frena, no, il cane suo frenava e non voleva saltare. Ma se prendevo contesto, dopo lo facevo vedere, dai, per magari guardavo, ho detto, se c'è anche lui a farlo, perché lui ha detto, dai, ti ha preso, siccome loro, Manuela, Diana, erano tutti quanti dentro, comprando, e a me quando sono stati di prezzo, sono dentro il fumo, gente, effetti. E mi viene la malinconia, allora mi sono inventato questa cosa e l'ho insegnato a saltare con le grazie. Per la traiente, grazie che bravo, che bello, bravo, questo cane, che intelligente. Bisogna saperne insegnare le cose. Sì, infatti. Oh signore, è purtroppo maledetto ratta pignata, mi doveva prestare anche un trapanino che c'ha lui, siccome l'amica di mia moglie voleva, avevamo di qui proiettili a ciondolo, e io già li so fare, ma mi serviva il, come si chiama, il trapanino per forare il... per poterla attaccare a qualcosa. E anche io vorrei che sia la collezionismo, questa parte piccoli e piccoli. Ehi, la capiniera c'ha tutto. E cosa rimanca? È sempre un paese. Dovevamo vederci per insegnarmi come si faceva a fare una certa cosa. Mi piace molto il letto. Se esploravate si vedeva verso il letto. Verso le... Che ore sono? Le 8 sono. Che ore sono? Le 8. Le 8 e 3 minuti sono già. Allora, devo portare giù il carro, dai, dai, Ciao, saluti!